Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Olanda in finale per la terza volta nella storia, ma per la prima volta non giocherà contro i padroni di casa. L'era successo nel 74 in Germania e poi nel 78 in Argentina, e sarà anche la prima volta di un'europea vincente fuori dall'Europa. Questi sono già due verdetti scritti. Il terzo e gli altri che poi seguiranno arriva da stasera con la semifinale Spagna-Germania, di cui poi parleremo in dettaglio con Fabio Tavelli nella seconda parte del programma. Infatti oggi, per ragioni di scalette e di collegamenti, giochiamo un pochino al contrario, e quindi siete i benvenuti sin da ora all'800 24 00 24, mentre poi nella seconda parte del programma, vi ripeto, sentiremo le ultime dal Sudafrica. Nel frattempo non mancano i vostri messaggi, le vostre mail, alcune voci da ascoltare. L'editoriale di oggi è firmato Diego Lava, che scrive: vorrei proporre il premio Osservatore d'Oro o Binocolo d'Oro o Talent Scout d'Oro, per essere più internazionale, al Real Madrid. Non guardiamo gli anni passati, anche se quel cambiasso regalato rimane una perla, ma penso non sia mai accaduto che due giocatori svenduti nello stesso anno vincano il massimo, e cioè non entrambi la Coppa dei Campioni, perché giocavano in due diverse squadre che hanno disputato la finale sotto il naso del Real Madrid al Bernabeu, e per il resto si stanno prendendo tutto, anche una finale mondiale. Sta ovviamente, chissà cosa pensa il presidente del Real, caro Diego, non ho idea di cosa pensi, che un giorno o l'altro penserà di essere un incompetente oltre che un ricastro sprovveduto, ma certo lei ha ragione, cioè due talenti svenduti come Snyder e Robinson sono veramente il colmo, no? che si sia registrato da tanti anni a questa parte. E Snyder, Robben, anche ieri sera decisivi nell'Olanda, non brillanti come in altre occasioni, fortunati, fortunato Snyder soprattutto, come è fortunato ormai dall'intero mondiale lui e l'Olanda, ma di questo poi magari parliamo in dettaglio più avanti. Prima vorrei rendere l'onore e le armi al maestro Tabárez, perché su Uruguay si è battuto con grande dignità, con coraggio, sapendo di essere inferiore, ma su questa inferiorità costruendo una buona, decorosa partita, tenuto conto anche delle assenze. C'erano anche assenze olandesi, ma insomma mi sembra fossero un tantinello più pesanti quelle uruguayane, ma soprattutto Tabárez ha dato alla fine in conferenza stampa una lezione di stile rara. Ne sentiamo una parte, e se non c'è tutto quello che ha detto, cioè la parte più significativa, poi ve la completo dopo. Tabárez: questi giocatori che sono stati in campo che hanno riuscito a pareggiare in certo momento la partita e non rinunciare fino all'ultimo minuto a vincere. Non si poteva chiedere di più, né a questi giocatori né all'Uruguay tutto. No, non c'era la parte, anche perché era stata una risposta a una domanda. La seconda domanda della conferenza stampa, seguita ieri sera in diretta, era stata: signor Tabárez, ma non avete subito il gol decisivo, cioè quello dell'1-2 in fuorigioco? E lui ha risposto: sì, abbiamo subito quel gol in fuorigioco, ma non mi sembra il caso di attaccarsi adesso a questo. Gli arbitri e gli assistenti devo decidere in un istante, sbagliano loro come sbagliamo noi, e alla fine il verdetto è giusto, l'Olanda ha meritato la sua finale. Questo si chiama Tabárez, sta in Uruguay, è stato per un certo periodo in Italia, un'esperienza durata abbastanza poco, probabilmente perché trattavasi di persona di questo genere. I primi ascoltatori, è bastato rivolgere un appello di accelerazione, eccoli qua. Vittorio Parma, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. No, io volevo fare una piccola protesta, perché io in questi giorni vi ho ascoltato, ho sentito per quanto riguarda le regole, vedo che la maggior parte queste regole non le vuole cambiare, e io trovo che non sia giusto, trovo che assolutamente che non sia giusto. Questo è stato, oltre che essere stato un bellissimo mondiale, è stato anche il mondiale delle ingiustizie, che proprio io penso che qualcuno in alto dovrà riflettere e dire: signori, facciamo qualcosa. Esagerata magari la proposta del rigore a porta vuota, ma non è esagerata la proposta di un gol ti do la regola del vantaggio, quello che è successo all'Uruguay, alla gol del Ghana, buonanotte al secchio. Cioè, bisogna un attimino trovare una via di mezzo. Io non so cosa ne pensa lei, però... Era gol del Ghana, cosa vuol dire vittoria, era gol del Ghana? Cioè, ti do la regola del vantaggio in che senso? Le spiego. Se c'è un fallo a centrocampo e la palla rimane della stessa squadra, viene dato regola del vantaggio. Il tiro in porta a porta vuota e parato da Suarez, era evidente che era gol, io do regola del vantaggio, do gol e Suarez rimane in campo. Ma che regola del vantaggio dà gol se la palla non è entrata, Vittorio? Ma perché il calcio, che è così bello, lo dobbiamo stravolgere con queste idiozie? Mi scusi, senza nessuna offesa, mi permetto, anche perché lei ha lo stesso accento con cui Silvio Smersi si appassionava a raccontarmi tutto quello che nel calcio avrebbe potuto cambiare, e le ripeto, senza offesa, era di ben diverso spessore. Tra queste anche quell'idea dello slittamento del terreno dietro la porta, di cui si è in tanti mi scrivono e mi chiamano, e di cui si è impadronito Tombolini, adesso ovviamente senza citare la fonte, e la fonte non dovrebbe essere la mia, sia ben chiaro, che mi sono limitato a rilanciare a 30 anni di distanza una proposta di un suo illustro conterraneo, purtroppo scomparso nel 2001, che si chiamava Silvio Smersi e che era un calciatore, pittore, artista e filosofo di prim'ordine, ma che non avrebbe mai detto una cosa del genere. Adesso stavo cercando se mi tornava in dialetto parmigiano, adesso magari qualche parmigiano mi aiuterà via sms, insomma, come definire una sciocchezza come la sua, cioè, che regola del vantaggio si applica se la palla non entra, e perché dobbiamo togliere il diritto a un giocatore di campo di parare un pallone pagando un prezzo altissimo, che è il calcio di rigore e l'espulsione. È incredibile. Beh, questa è una mail divertente, è arrivata ieri, firmata Vezio Gattoni, e dice: pensavo fosse una tecnologia solo italiana, ma seguendo i mondiali ho capito che ormai è diffusa in tutto il mondo. Mi spiega come fanno i calciatori a sapere esattamente quando sono inquadrati in primo piano per poter sputare. È contrario, Vezio, è contrario, nel senso che il calciatore sputa a prescindere non appena finita un'azione, e questo, insomma, basta controllare, è statistico. È il regista a quel punto che dovrebbe sapere che, poiché in quel preciso momento il soggetto sputa, beh, insomma, tanto verrebbe studiare un altro genere di primo piano, no? Magari andare su qualcun altro e non su chi ha appena compiuto l'azione, e per ragioni, va a sapere, se respiratorie, se per abitudini, per, insomma, chi ha giocato lo sa comunque che lo sputo fa parte del repertorio. Certo, il regista, credo, ne dovrebbe tenere il debito conto. Alessio, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Una domanda, senza porre nessun tipo di accento su quanto sono stati gli errori arbitrali che si sono susseguiti comunque durante l'arco del Mondiale. In Italia sentiamo parlare spesso, portiamo gli arbitri stranieri perché sono migliori, perché forse garantiscono un'insindacabilità di giudizio, probabilmente. Però io stavo seguendo un attimino questi mondiali, ho trovato tanti errori che possono essere, per carità, anche gli arbitri aiutati dalla tecnologia famosa della quale si sta parlando, però ci sono errori umani non indifferenti. Airoldi è stato uno di questi, la Spagna è stata più volte in questo mondiale aiutata, la stessa Olanda ieri sera, il gol di Schneider abbiamo visto che è in fuorigioco. Ora non c'è un'accusa, però uno stato di e smettere anche in Italia probabilmente di dire che gli arbitri stranieri sono comunque migliori. Lei cosa ne pensa riguardo? Io penso che gli arbitri stranieri fossero così migliori si diceva un tempo, poi ci sono i cicli, ogni tanto i cicli di saliscendi, no? Ogni tanto c'è una buona covata di arbitri qui, poi ce n'è una là, poi c'è un'altra altrove. Quest'anno gli arbitri in Europa sono stati disastrosi più che in Italia. La Champions League è stata diretta in maniera pessima, e questo è stato un gran brutto segnale internazionale che non poteva, almeno in parte, non riverberarsi sul mondiale. Io continuo a non capire come possa essere in un mondiale così comunque interessante, secondo me divertente, mediamente ben giocato, come possa continuare a essere la questione arbitrale quella che veramente attira noi italiani? Siamo gli unici al mondo che continuiamo a parlare così, in maniera così maniacale, di queste cose. Però evidentemente noi siamo fatti così, siamo fatti male a parer mio, ma siamo fatti così. Sentirei un frammento di Vigilia Spagnola di Del Bosque, perché Del Bosque fa una specie di appello finale che è curioso da ascoltare, sentite. Mi appoggeria in San Fermín, che mañana es San Fermín, a ver si nos da un poco de suerte, y además en mi casa siempre ha habido muchos Fermines sueltos, así que ojalá mañana sea un buen día para que San Fermín nos eche una mano. Del Bosque si appella a San Fermín, perché dia una mano oggi alla Spagna. Ovviamente lui ha parlato ieri, quindi ha detto mañana, ha detto domani. Perché? Perché oggi è San Fermín, ed è San Fermín è il patrono di Navarra, ed è insomma il santo a cui sono intitolate per esempio le ferie, la feria di Pamplona, che è iniziata stamattina, credo, con il primo ansierro. Del Bosque poi ha spiegato a dei colleghi spagnoli che gli hanno chiesto il perché di questo appello a San Fermín, che in realtà suo padre e suo fratello, che sono scomparsi, si chiamavano Fermín, e che spesso e volentieri loro si recavano insieme, proprio come famiglia, a far visita al santo, e poi si trattenevano per gli ansierri, cioè per questa festa dei tori per le strade di Pamplona. Vediamo stasera se sarà più forte San Fermín o il famoso polpo, che però coincidono in questo caso, no? Visto che il polpo stavolta ha detto Spagna. Pensate a come siamo ridotti per un mondiale. Marco, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Un quesito, come mai un giocatore secondo me molto bravo come Fabregas viene così poco utilizzato da Del Bosque ora, e se non mi sbaglio anche da Aragonés? Esatto. Tutta la sua... Buona domanda, bisognerebbe chiederlo a loro. In effetti la cosa è abbastanza sorprendente. Io credo che dipenda dal fatto che quella squadra è impostata, cioè che hanno non le stessissime caratteristiche, ma quasi, Xavi, Fabregas e Iniesta. Ora, mentre Xavi e Iniesta, a forza di meccanismi nel Barcellona, hanno trovato comunque delle distanze, Iniesta è un po' più finalizzatore, Xavi è certamente più regista classico, un terzo giocatore che è un po' Xavi e un po' Iniesta, come caratteristiche, probabilmente viene considerato un po' eccessivo. Da qui la scelta di un centrocampista, come dire, a protezione, no? Accanto a loro, che in questo caso è un po' Xabi Alonso e un po' Busquets, che nell'altra Spagna, quella del 2008, era Silva, pedina che oggi manca molto. Credo dipenda da questo, perché Fabregas, credo, in qualunque altra nazionale del mondo il suo posto da titolare l'avrebbe, almeno a parer mio. Ci sono tante altre mail. Qua c'è Stefano Stoppani, che scrive dal Messico, e che è un italiano che risiede là, e che dice, scrive: facile dirlo ora, ma a febbraio ho scommesso davvero sull'Olanda campione per tre ragioni. La prima è che questa squadra ha vinto tutte le partite di qualificazione al mondiale ed è imbattuta dal 2008. La seconda è che non è spettacolare e non trasmette emozioni forti, ma è pratica, efficace e tosta, ed è arrivata in Sudafrica a fari spenti. Terzo, è in credito con la storia calcistica 74-78, e quale miglior terra per passare alla cassa se non in Sudafrica? Non dimentichiamo che i primi colonizzatori bianchi del Sudafrica nel secolo XVII furono i boeri, cioè i contadini olandesi, in seguito chiamati Afrikaner, i cui discendenti estremisti, se mi è concesso semplificare secoli di storia, hanno poi dato origine al nefasto sistema dell'apartheid. Insomma, il cerchio di questa storia potrebbe chiudersi domenica. Stefano Stoppani, grazie. Francesco Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione e per la sua schiettezza. Io avrei due domande veloci. Allora, la prima è se lei avvalla la mia teoria che Sneijder vale Messi. Riesce ad alzare un tantino la voce, mi scusi Francesco. Allora, mi sente meglio? Sì, adesso sì. Allora, la prima domanda è questa: se lei se la sentirebbe di avvallare la mia congettura, cioè che Sneijder vale Messi. E la seconda domanda è, visto che lei lo ha vissuto e masticato quel calcio, se mi può dare un commento tecnico sul mio calciatore preferito, cioè Rummenigge. Ma insomma, adesso un commento tecnico su Rummenigge, un commento tecnico così su due piedi non saprei, perché mi aveva già stordito la prima, quella di Snyder e Messi, mi ha già messo KO la prima. È in atto, cioè intendiamoci bene, se parliamo di questo mondiale Snyder sta incidendo ben più di Messi e quindi non ci sarebbe confronto. Se parliamo di valore assoluto, io credo che Snyder stia vivendo un'annata magica e certamente irripetibile, questo lo dico adesso e ne rispondo negli anni a venire. Perché? Perché lui si sta meritando tutto, e sia ben chiaro, perché è un grande giocatore, però gli sta girando in una di quelle maniere come sta girando all'Olanda. Io credo che l'Olanda dalla prima partita oggi non abbia perso un rimpallo a metà campo, cioè sa quei palloni, quei palloni, no, in cui appunto il rimpallo può andare a vantaggio dell'uno o dell'altra. 100% Olanda. Ha segnato 5 gol fino ad ora, quindi è capocannoniere e candidato al pallone d'oro. Di questi 5, almeno 3 sono gollonzi in piena regola. Uno è quello di ieri sera, che tocca una prima gamba, ne sfiora una seconda e incrocia la terza di Van Persie, forse in fuorigioco, forse senza toccarlo, ma insomma grazie anche a questa cosa impala il portiere. Noti che per calciare questo pallone l'aveva rubato un compagno piazzato meglio di lui. Il gol precedente, no, quello di testa bellissimo al Brasile, quello precedente ancora, come sappiamo, era un cross su cui hanno dovuto tamponarsi Julio Cesar e Felipe Melo per consentire che questa palla andasse in porta, e la FIFA l'ha attribuito a lui. Il precedente ancora era un tiro dal limite senza pretese, esattamente in faccia al portiere del Giappone, che se l'era buttato dentro. Tutto questo non sta impedendo a Snyder di essere un protagonista dell'Olanda e al marketing, in particolare della Gazzetta dello Sport, di spingere, perché la Gazzetta dello Sport cura anche, ma questo è una, cioè non la Gazzetta dello Sport direttamente, ma insomma RCS cura anche il marchio e l'immagine dell'Inter, e quindi probabilmente può darsi che alla fine tutto si tenga, almeno io immagino. Paolo da Monza, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Due considerazioni e mezzo. La prima, purtroppo ho visto solo il secondo tempo ieri sera, quello che mi ha impressionato di più dell'Olanda è il fatto che giocassero in 5-6 persone al limite dell'area avversaria, nel senso, anche quando il buon Dossena diceva che l'Olanda stava tirando il fiato e rischiava di finire la partita sulle ginocchia, hanno fatto 3 azioni in 7 minuti, tra cui 2 gol, ed erano in 7-6 sulla tre quarti dell'Uruguay. La considerazione a metà è che comunque, secondo me, per ora il giocatore migliore che ho visto è Diego Forlan, che resta migliore anche dopo la partita di ieri sera, ha rischiato di segnare il 2-1 per l'Uruguay poco prima della doppietta olandese, e l'unico, secondo me, che gli può levare il posto di miglior giocatore del mondiale è David Villa, dipende da cosa farà stasera, non di certo Schneider. Grazie, grazie Paolo. Sì, ma se insomma si possono... Cioè, tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza, però adesso, cioè, dopo queste partite di questo mondiale, che Snyder sia già diventato meglio di Messi, insomma, c'è dentro tutto, no? C'è dentro appunto che non si può fare mani sulla linea, che questo andrebbe considerato reato, eccetera, eccetera. C'è anche che fuori fa un gran caldo, e quindi questo spiega tante cose, come un paio di ascoltatori mi segnalano. Torniamo in compagnia con 10 milioni di spettatori per la semifinale di ieri sera. Sono tanti, perché è vero che è una semifinale mondiale, ma è vero anche che insomma l'appeal di Olanda-Uruguay non è quello di Brasile-Argentina, almeno sulla carta. 10 milioni e il 43% di share sono tanti, anche perché poi a questo dato va sempre sommato quello di Sky, che è molto alto in questo mondiale, e poi, come in questi casi sempre poi mi ricordano gli ascoltatori, c'è la TV svizzera per una certa area del nord, c'è Capodistria per un'altra certa area del nord, e quindi si arriva ampiamente oltre il 50%, e probabilmente non lontano dai 15 milioni di spettatori, che sono davvero, davvero tanti. Massimo, in linea da Macerata, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, mi piace il suo modo come affronta le tematiche calcistiche. Riferendomi a Snyder, essendo io tifoso interista, dico, Snyder è stato un talismano quest'anno, sì, dicevano che era un talismano, ma in realtà alla fine funzionava, era funzionale anche al gioco dell'Inter, perché poi alla fine l'Inter vinceva quando soprattutto c'era Snyder. E ora sta facendo un buon mondiale, è candidato per il pallone d'oro. Io dico, se vince il pallone d'oro, se è vero quello che sento dire, le cifre dello United che vorrebbe comprare Snyder a 35-40 milioni di euro, secondo me sarebbe il momento di venderlo, anche perché poi non so se è per sfortuna o per il fatto chi vince, di solito chi vince il pallone d'oro poi non si ripete. Quindi potrebbe essere valido sacrificare Snyder piuttosto che magari Maicon o Balotelli, come sento tante volte. Volevo sapere che ne pensava lei. Ma io di mercato sinceramente non mi intendo e non mi voglio intendere. Non credo che Snyder, su una cosa sono d'accordo, non credo che Snyder possa andare oltre, nel senso che quest'anno ha fatto davvero un'annata strepitosa, ma insieme tutto gli sta girando in un modo incredibile. Ripeto, essere capocannoniere mondiale con 5 gol e averne segnati 2 in realtà su 5 per meriti propri, è qualcosa che ti fa pensare che è davvero il tuo anno, no? Come dà l'impressione davvero vedere giocare l'Olanda e vedere come gli gira dalla prima giornata a oggi che possa essere l'anno dell'Olanda, con il permesso è evidente di Spagna e Germania. Glielo daranno questo permesso o la Spagna o la Germania, caro Fabio? Buongiorno Gigi, complicata, perché comunque io sono d'accordo con te, i segnali che l'Olanda avrebbe fatto tanta strada erano forti e inequivocabili, ma devo dirti anche da prima del mondiale, perché comunque la squadra di Van Marwijk ha avuto un girone di qualificazione e tutto un approccio a questa edizione del mondiale davvero entusiasmante, ed è una squadra che non perde una partita dal settembre del 2008, e quindi non è certamente una sorpresa. L'Olanda ci ha abituati spesso ad arrivare con favori del pronostico e poi magari non fare quello che si pensava. Basti anche riflettere sul fatto che nel 2002 questa squadra nemmeno era riuscita a qualificarsi. Sì. E che nel 2006 comunque aveva pagato forse quello che ha pagato l'Argentina in questo mondiale, cioè una squadra guidata da un tecnico che non aveva grande esperienza a livello appunto di guida tecnica di una squadra, ma aveva uno straordinario passato da calciatore, sto parlando di Marco Van Basten. Come no? Ed è bastato forse a mettere un allenatore normale che abbia portato i migliori che ci sono in giro e li abbia semplicemente messi in campo. Io trovo che tatticamente l'Olanda, anche se non può essere neanche lontanamente paragonabile all'arancia meccanica di Rinus Michels, abbia proposto un tipo di calcio che è un tipo di calcio molto moderno, che è un tipo di calcio nel quale non esiste più un centravanti puro, che è un tipo di calcio che esalta molto le doti dei singoli, e anche se è una squadra normalissima dal numero 1 al numero 6/7, dal numero 6 e mezzo in su è una squadra che ha dei valori singoli fantastici, basta semplicemente dargli un minimo di consegna tattica e quindi spiegare a Robben dove deve stare, dire a Snyder di fare quello che vuole, sapere inserire anche un giocatore come Van der Vaart nel secondo tempo senza che vada a squilibrare tutta la squadra, senza un punto di riferimento centrale. Ecco, io trovo che l'Olanda per certi versi a volte assomiglia alla miglior Roma di Spalletti quando tutto funziona bene dal centrocampo in su. Sì, augurando anche lunga vita a Coit, o come accipicchia lo vogliamo chiamare, perché questo ha una quantità di gioco spaventosa, ricorda, non certo fisicamente, ma ricorda il Domenghini dell'Italia dei bei tempi messicani degli anni 70, ripeto, non fisicamente lo ricordo, ma ricordo per la capacità di sacrificio, per quella sua corsa così apparentemente faticosa ma in realtà facile, congeniale, e poi per dei signori colpi, perché ieri sera comunque anche il cross del terzo gol per il colpo di testa di Robben gliel'ha leggermente dipinto sulla testa, ed era come minimo al decimo chilometro. Io credo che Kaizi sia una pedina molto ma molto importante in quel meccanismo. Senti, oggi facciamo magari un collegamento più sintetico. Che tira più aria, da Spagna o la Germania, visto da lì? Ma guarda, visto da qua l'onda lunga è per la Germania, nel senso che la Germania ha impressionato veramente tanto e la Spagna ha impressionato veramente poco da questo punto di vista. Quindi se dobbiamo mettere sul piatto della bilancia una squadra che ha vinto due partite, ottavi e quarti 1-0 contro avversari non trascendentali e dall'altra facendo anche molta fatica soprattutto col Paraguay, e dall'altra parte mettiamo sul piatto della bilancia una squadra che dà 4 sterle all'Inghilterra e ne dà altrettante all'Argentina, cioè due tra le grandi favorite, io trovo che il pronostico non possa non essere per la Germania. Certo. Credo anche che non vedremo lo stesso finale di partita, cioè veramente, cioè, se la Germania facesse ancora polpette della Spagna dopo averlo fatto dell'Inghilterra e dell'Argentina, davvero bisognerebbe assegnarle il mondiale prima della finale. No, invece no, se fosse davvero così, sai cosa sarebbe? Sarebbe che poi la finale la vince l'Olanda, così sarebbe la vendetta perfetta sul 74, perché nel 74 l'Olanda ha fatto polpette di tutti giocando un calcio indimenticabile fino alla finale e poi in finale si era resa la Germania. Stavolta, se davvero passa la Germania dando spettacolo anche stasera, poi potrebbe esserci la Nemesi a 36 anni di distanza. Potrebbe, però io sinceramente non ho ancora capito chi giocherà al posto di Thomas Müller, perché è certo che non giocherà un giocatore così importante, così bravo come Thomas Müller. Credo che se la Germania poi arriverà in finale sarà la strafavorita, anche perché recupererà Thomas Müller. Io trovo che questa sera la Spagna possa e debba fare una grande partita, soprattutto a centrocampo, e mettere in difficoltà la Germania, e che la Germania senza Müller abbia veramente tanto di meno rispetto alla Germania che ha battuto l'Inghilterra e l'Argentina. Poi, possa fare, Fabio, la prima grande partita del Mondiale, perché finora la Germania di grandi partite non ne ha fatta nemmeno mezza. Sì, perché la Spagna di fatto è arrivata in semifinale quasi in folle, cioè senza mettere una marcia, perché ha avuto una partita da dentro fuori già contro il Cile. Sì. Però era una partita che si è messa subito bene, anche considerando che la Svizzera non riusciva a battere l'Honduras. Considerando il risultato dall'altra parte. La Spagna e la Germania hanno già perso una partita, adesso nella storia non molte squadre sono riuscite a vincere un mondiale avendo perso una partita, l'ultima fu l'Argentina nel 78, la stessa Germania Ovest nel 74 vinse il mondiale perdendo una partita contro la Germania Est. Contro la Germania Est, certo. Si può fare, non è vietato vincere il mondiale perdendo, in ogni caso una delle due finaliste andrà a far la finale avendo perso. Fabio, io direi, ti proporrei di sospendere per vento questo collegamento, perché infatti il vento direi che l'ha sospeso da sé, perché la ricezione non era ideale. Ci torniamo domani, evidentemente, anche perché avremo l'esito di questa semifinale che è di gran lunga la più attesa da commentare. Grazie dunque a Fabio Tavelli, che per una volta non era esattamente allo studio centrale Sky Sport 24 a Johannesburg, ma all'esterno, e lo si percepiva. C'è in linea Dino, ha chiamato da Torino. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, salve. Io volevo parlare appunto della differenza tra Sneijder e Messi. Messi secondo me è un talento indiscusso, però ultimamente secondo me si incapponisce molto nei dribbling, forse è anche abituato a giocare con il Barcellona, come giocano loro, come li chiamano, i tiki tiki taki, non dà molta profondità, perché delle volte prende, parte e tenta lui la soluzione a favore degli attaccanti, mentre Sneijder sembra che appena il pallone subito vede l'uomo ed è più veloce come gioco, forse un pochettino più moderno e meno stucchevole di quello che è abituato a giocare Messi. Forse questa è la differenza che adesso... Ma la differenza è che sono due giocatori completamente diversi, proprio come caratteristiche, anche perché uno è un grande giocatore e l'altro è un fuoriclasse, e quindi già questa è una prima differenza. Io sposo la tesi di un ascoltatore che adesso stavo scorrendo i messaggi arrivati dopo quel parallelo Sneijder-Messi, che aveva scritto: Sneijder come Messi, piano con la grappa. Ecco, io sono di questa teoria. Poi, anche perché, ripeto, non può essere come Messi, né Messi può essere come Sneijder, perché sono due giocatori che hanno caratteristiche nettamente diverse. E ripeto, anche perché le caratteristiche di Messi sono uniche, assolutamente uniche. Fedele, Verona, buongiorno. Buongiorno dottore. Diga. Io ho due cose. La prima è una tiratina d'orecchia a lei, che non riconosce mai, e mai l'ho sentita riconoscere, i meriti di Mourinho, soprattutto sul lavoro fatto su Sneijder, preso da Real Madrid, che era poco più che un cassonetto. Io parlo da interista, me lo ricordo, neanche noi interista gli volevamo bene. Senta, il cassonetto, al posto del cassonetto, il suo amico Mourinho al posto del cassonetto voleva Deco. Sì, ho capito. capito, però anche perché era il suo procuratore, che ha fatto un bellissimo lavoro sia psicologico che fisico, soprattutto psicologico, perché non ho mai visto uno Snyder così ieri, che deva palla a tutti, credo che l'abbia chiesto anche al pubblico, si sente un caposquadra, perché c'è un lavoro di Mourinho, dello stesso certo. Van dietro. È da escludere che sia un lavoro di Van Marwijk, che è il CT dell'Olanda, è certamente un lavoro di Mourinho, su questo non avevo dubbi nemmeno io, e questa è la tiratina d'orecchi. Poi la tesi del grande Tavelli, che effettivamente con Van Basten l'Olanda ha fatto poco, è la stessa identica cosa che ha fatto con l'Argentina con Maradona, perché penso che se lei dà in mano a uno come, ne so, mi viene un nome a caso, Sesse Cosmi, l'Argentina vince il mondiale, Cosmi, ma lo vince senza problemi. Mi tocca ripetere quel piano con la grappa dell'ascoltatore precedente, ho l'impressione, e girarlo simpaticamente anche a lei. Giovanni, eccoci da lei, dica. Sì, buongiorno Garanzini. Buongiorno. Dunque, io volevo avvallare la tesi che ha detto l'ascoltatore di prima, che mi sembra Paolo da Monza, che in effetti ieri ha visto un'Olanda molto forte dalla tre quarti in avanti, cioè ovvero attaccavano in 5, 6, anche 7. E quando a un certo punto i guru della Rai, Dossene e Cerquetti, dicevano che l'Olanda era la frutta, questi in 5 minuti gli hanno messo due pappine. E vorrei anche dire, se mi permette, che non ho sentito in questa trasmissione, che l'Olanda ha sfiorato il gol anche altre due volte, ovvero una nel primo tempo all'inizio, mi sembra, un'altra volta con Robben, come ancora simile all'azione che ha sbagliato col Brasile. Quindi secondo me, tanto di cappello all'Uruguay, chapeau, hablo español, me gusta l'espagnol, me gusta il football sudamericano. Però devo dire di repente che ieri l'Olanda ha meritato di ganare questa finale, e gli auguro che... Caldo, Giovanni? Che gana la finale. Caldo, gana la finale. Sì, allora, le prime due occasioni dell'Olanda gliele ha costruite l'Uruguay, perché la prima è stata un assist di Muslera e Keita ha tirato alto, ed era il terzo minuto, adesso non ho qui il taccuino ieri sera, ma ci vado vicino. È passato poco ed è stato Cáceres involontariamente a dare un assist a un altro dei loro che non ricordo, forse proprio Robben, e si sono sbagliati anche quello. Poi è arrivato questo gioiello di Van Bronckhorst, uno dei più bei gol del mondiale, solo che Van Bronckhorst ha 35 anni, gioca nel Feyenoord, e quindi, come dire, le casse di risonanza giornalistiche e televisive ci sono andate più piano, no? Anche se era un gol gioiello, perché è molto meglio con l'onzo di Snyder, fa più titoli, fa più vendere, fa più marketing, eccetera eccetera. Dopodiché è esistita solo l'Uruguay fino al salvataggio sulla linea di nuovo di Van Bronckhorst nel secondo tempo, e poi alla punizione di Snyder. Dopodiché l'Olanda ha ricominciato a giocare, che fossero in 6 o 7 al limite dell'area avversaria lo escludo. Attaccavano con raziocinio invece, senza scoprirsi, perché hanno capito che l'Uruguay era pericoloso, e si sono meritati la loro vittoria. Paolo Gerini scrive da Riccione: non sono del suo parere a proposito del diritto da parte di un difensore di parare con le mani un tiro. Nel basket, se uno toglie un pallone nei pressi del canestro, viene dato buono il canestro. Nel basket, caro Paolo, chi ste o pallone? Questo è un altro film, non è colpa mia. Andrea Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io, oltre a fare i complimenti, chiaramente, volevo dire una cosa, ma qui non si parla dell'unico, secondo me, calciatore moderno, utile e forte, fortissimo, che c'è a questi mondiali, che è un certo Özil, l'esterno sinistro della Germania, che secondo me non ha avuto palcoscenico che meritava, insomma. Io lo trovo, lei ha prima citato Domenghini, mi ricordo molto Bruno Conti, secondo me è un giocatore fondamentale, non so quanti anni abbia sinceramente, però 21, penso sia... 21, ecco, lui allora è un grandissimo campione, non sapere cosa ne pensava. 21 lui e 20 Müller, certamente è un gioiellino, adesso un grandissimo campione, piano, proprio perché ha 21 anni, è un gioiellino, sta facendo un grande mondiale, indubbiamente, è una delle chiavi di volta del gioco tedesco, che però, vede, sono tante. Se Özil, la Germania è stata fino a qui, talmente ricca di soluzioni di gioco, che Özil è passato non inosservato, come lei dice, ma certamente in secondo piano rispetto ad altri. Perché? Ma perché ne hanno tanti che stanno giocando davvero bene, perché Podolski sta facendo come si diceva una volta, il terzino, insomma, sta facendo il terzino e l'ala con una completezza e una ricchezza di interpretazione eccellente. E Podolski si conosceva, Klose alla barba di Noè, però ancora un po' e batte il record assoluto dei gol in un mondiale. Müller non ne parliamo nemmeno. Schweinsteiger, una regia eccellente, la coppia centrale difensiva, cioè in tanti stanno facendo un grande mondiale, e tra questi certamente Özil, che è quello che gli dà, ha ragione lei, un po' di suggestione di Bruno Conti c'è, poi Bruno Conti giocava più largo, però ci può stare come, perlomeno come vivacità e come colpi di talento improvviso, non come il mio che mi stavo dimenticando il sembra ieri e che andiamo immediatamente a ripescare per farci aiutare Nicola Filippone a capire cosa può essere successo in un 7 luglio nella storia dei mondiali. Sembra ieri. 7 luglio 1974. 20 anni dopo il successo in Coppa Rimé, la Germania diventa la prima squadra ad aggiudicarsi il nuovo trofeo messo in palio dalla FIFA. Nella finale, disputata all'Olympia Stadion di Monaco di Baviera, i tedeschi dell'Ovest regolano l'Olanda di Cruyff, forse la formazione più brillante che si sia mai vista a un mondiale. Gli olandesi si erano portati in vantaggio dopo soli 2 minuti, con un rigore trasformato da Neskens. Il pareggio arriva al 25esimo, sempre sul rigore, realizzato da Breitner. Il gol del definitivo 2-1 lo firma l'implacabile Gerd Müller al 43esimo, con una conclusione sotto misura. Nella storia delle finali mondiali è molto frequente che la squadra vincitrice debba rimontare un iniziale svantaggio. È infatti accaduto alla stessa Germania Ovest nel 54, al Brasile nel 58 e nel 62, all'Italia nel 34 e nel 2006, all'Uruguay nel 50, per quanto Uruguay-Brasile del 50 fosse una gara decisiva ma non una finale, e all'Inghilterra nel 66. Chi non ha visto quella finale fa fatica a capire, oppure deve vedere la registrata intera, insomma, fa fatica a capire ancora oggi come abbia potuto l'Olanda perdere quella partita, oppure ha scelto la Germania a vincerla, per come era stato il percorso dell'Olanda e della Germania in quel mondiale e per come si era aperta quella finale con, non ricordo mai il numero, se 28 o 32 o 34 passaggi consecutivi degli olandesi che hanno battuto il calcio d'inizio e che a un certo punto, stanchi di questa melina, hanno fatto questa accelerazione improvvisa con Cruyff in area e Fox che l'ha dovuto stendere. Segnato il rigore, si trattava soltanto di contare quanti gliene avrebbero fatti e invece ne hanno presi 2 e la Coppa l'ha vinta la Germania. Troppo caldo, sospendiamo le telefonate, scrive Gigi da Varese. Daniele c'è ancora, Daniele, provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie. Innanzitutto complimenti, è una premessa che riguarda Tempo di Sport, mi piacerebbe vedere così trasmutato in televisione, ma capisco la realtà televisiva di oggi purtroppo. La seconda riguarda l'Inter, volevo sapere un'opinione sul mercato dell'Inter. Ecco, se fosse lei il dirigente dell'Inter, guardando e considerando Maicone e Balotelli, lei di chi si preverebbe in quest'estate, pur sapendo che potrebbe essere un rischio cedere un grande, potenzialmente un ottimo giocatore come Balotelli, e uno che però si trova a fatica l'alternativa come Maicon? La ringrazio e come sempre complimenti. Daniele, sono io che ringrazio lei per aver già dato anche la risposta. Lei ha fatto la domanda, ha dato la risposta, io non so se la condivido, non ne ho idea, non mi riguarda. E quindi, anche perché il tempo è nettamente no, ma insomma è già appena scaduto. E quindi non mi resta che ringraziarla, darvi appuntamento a domani con Filippo Auregi in regia e Flavio Suari in redazione. Buon pomeriggio a tutti. A Tempo di Sport. What?